Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Salve a tutti, eccoci con una nuova puntata sulla questione del diritto all'abitare. Siamo sempre noi, io sono Margherita. E io sono Nazario. Oggi partiremo da quello di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Vi ricordo, abbiamo parlato del piano casa. Dunque sì, di cosa parleremo oggi? Vorremmo soffermarci più che altro su qualcosa che riguarda il nesso che lega il concetto di illegalità al concetto di illegittimità. Abbiamo approfondito la questione dell'articolo 5 e di come questo vada a definire come illegale le occupazioni abitative e come vada a ledere alcuni dei diritti fondamentali della persona. E quindi ci siamo interrogati sulla differenza tra legalità e legittimità, su cosa possa essere definito legale o illegale e cosa possa essere definito legittimo o illegittimo. E quindi abbiamo detto che è vero, occupare è illegale. Perché è illegale? Perché va a ledere quello che è il diritto di proprietà altrui e potenzialmente i frutti che da esso potrebbero derivarne. Ma è illegittimo provvedere alla cura della propria famiglia? È illegittimo dare la possibilità ai propri figli di ricevere un'istruzione alla stregua di chi è più fortunato? È illegittimo avere la possibilità di ricevere assistenza sanitaria e godere dei diritti politici legati al concetto di residenza? E per ultimo, è illegittimo porre a manifesto della propria lotta i caratteri di esigenza sociale dell'individuo riconducibili anche e soprattutto agli articoli 2 e 3, 2 della Costituzione? Beh, a queste domande io non vorrei rispondere. Vorrei che fossero spunto di riflessione per voi ascoltatori e per coloro che dall'alto, diciamo, si trovano in una situazione di gestione di questa problematica. Anche perché da quello che passa l'informazione, la cosiddetta informazione nazionale, informazione di regime, se vogliamo. Informazione di regime, chiamiamola così. Diciamo, passa una idea di occupazione che è sancita come illegale, contro cui Palazzo d'Accursio ha deciso di usare il pugno di ferro senza andarsi davvero a chiedere perché nascono queste occupazioni, perché in questo momento e perché ce ne sono così tante. A queste domande che ci siamo fatti, la risposta si trova in quelli che sono i movimenti, i comitati e le associazioni di lotta per la casa, che si fanno carico in prima persona di questa emergenza, andando a sostituire quello che è il punto di vista e il modo di operare dell'amministrazione comunale. Infatti, se sempre l'informazione fa passare questi personaggi come appunto dei personaggi che sono i soliti facinorosi, sono i soliti dell'estrema sinistra, come se la questione dell'occupare fosse occupare per ottenere gratuitamente un'abitazione, occupare per saltare le file della burocrazia e dell'amministrazione. È necessario comprendere che non si occupa per il puro gusto o per la comodità di avere uno spazio, bensì per agire in sostituzione di una mancata tutela da parte di quella torre amministrativa tanto complessa ed efficiente quanto fallibile, poiché è governata da interessi di svariato tipo, cercando di far valere dal basso ciò che ormai da tempo quest'ultima non è in grado di tutelare appieno. E con ciò faccio riferimento a quei diritti costituzionalmente garantiti e che sono riconducibili al possesso di un'abitazione. Quando si parla di diritto all'abitare non dobbiamo subito pensare alle occupazioni, perché i movimenti per il diritto all'abitare si occupano di tante questioni. Ci sono sportelli che offrono assistenza, offrono consulenza, dai contratti di affitto alle questioni di disagio, a problematiche che nascono dal avere un luogo di abitazione che non è consono a delle norme. Questi movimenti per il diritto all'abitare non sono dei professionisti dell'abuso con le mappe del catasto in mano pronti ad occupare ogni stabile sfitto, come a dire che non si ha il diritto a tenere uno stabile sfitto se si vuole e andare lì a ledere il diritto di proprietà. Non è questa la questione. L'occupare gli alloggi a sfitti non è il fine. Il fine per cui si battono è garantire a chi non ce l'ha una casa, La loro battaglia è emersa quando appunto il problema delle case è diventato una realtà che non era più possibile ignorare. Nessun collettivo nasce per difendere questo diritto, ma si sono evoluti da altre realtà, da altre battaglie. Centri sociali che si occupavano di tutelare i migranti, di sindacati che si occupavano di portare avanti delle battaglie per il diritto al lavoro. Ma il diritto all'abitare è diventato una questione politica, qualcosa che va a porre delle domande su un diritto al welfare, un diritto all'uguaglianza, che vengono negati. Quindi come viene posto in essere questo aiuto? Molti si recano agli sportelli che sono adibiti appunto a riceverli, no? Chiedendo aiuto, chiedendo assistenza nel loro percorso volto alla ricerca di un tetto sotto il quale vivere, ma anche per formulare delle semplici domande inerenti alla loro situazione. E questo è l'inizio di un lavoro che contempera la partecipazione dei militanti che scelgono di rischiare agendo nell'illegalità pur non avendo un interesse diretto, ma in virtù di una forte spinta mossa da un desiderio di uguaglianza ed equità. Quindi contemperare che cosa? Contemperare questo modo di operare dei militanti alle esigenze degli abitanti o occupanti, che in questo processo di appropriazione degli spazi acquisiscono consapevolezza dei propri diritti, maturando l'idea di ciò che si deve e di ciò che invece è dovuto. Infatti, l'occupazione non è la prima soluzione e non si arriva ad un'occupazione così per caso, ma l'occupazione fa parte di un processo di consapevolezza politica, di consapevolezza di diritti, di maturazione anche, di capire ciò che si sta facendo e per cosa si sta agendo. Occupare è un gesto estremo per lanciare un segnale. Dicono loro: se voi ci negate un diritto, noi ce lo riprendiamo. Occupare è un atto politico per rimarcare l'inconsistenza della giustizia sociale. Quello che abbiamo visto noi nelle occupazioni è molto diverso da quello che vuole far passare l'informazione. È soprattutto fatto di volti, da storie, da persone. Persone che hanno ritrovato il senso della propria vita o hanno trovato un senso alla propria vita una volta che hanno capito per cosa stanno lottando e una volta che gli si è data la possibilità per capirlo. E parlando di speranza, vi lanciamo una canzone per farvi prendere un attimo il respiro da tutta questa sequenza di informazioni che vi abbiamo dato. È un Grazie alla vita, e infatti si chiama Gracias a la vida di Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansaron, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Ritornando a quella che è la situazione locale, quindi mettendo a fuoco quella che è la situazione bolognese, nel comune di Bologna si avverte il riflesso di un modo di operare che è lungi dall'essere risolutivo dell'emergenza abitativa. Perché? Beh, lo diciamo subito. Dato il periodo di crisi e i vari fattori soggettivi critici che hanno investito famiglie e singoli, il 28 novembre 2014 era stato siglato dal comune e dalla prefettura il cosiddetto protocollo sblocca alloggi, volto al recupero di immobili vuoti di enti pubblici e privati da destinare a chi finisce sotto sfratto o è senza casa. Già da settembre 2014 erano stati organizzati dei tavoli di confronto tra le istituzioni comunali e gli enti pubblici, per avere un elenco di edifici vuoti da mettere a disposizione per accogliere temporaneamente le famiglie rimaste senza casa. Ma dopo i primi annunci, la macchina si è inceppata e la pratica è rimasta ferma. La macchina burocratica elabora, ma non riesce a giungere un risultato, anche a causa della bassa convinzione o della scarsa convinzione delle associazioni dei privati nei confronti delle posizioni o promesse di Palazzo D'Accursio in merito alla contropartita economica derivante dall'affidamento degli immobili. Ed ecco che, nuovamente, ci si ritrova in una condizione di stallo critico e di insoddisfazione, che oltre a gettare le basi di una guerra tra poveri, porta a pensare ad altre alternative. Parliamo un attimino delle possibili opzioni che si possono presentare dunque in soccorso a questa emergenza. Mi sembra opportuno per esempio citare la presenza di organizzazioni criminali nel mercato nero degli affitti e delle compravendite che, giocando sulla negligenza delle amministrazioni, si offrono rivoluzionari dell'emergenza proponendo un tetto a bassi costi. Un secondo pensiero è rivolto anche nei confronti di coloro che, per soddisfare le proprie esigenze abitative, sono disposti a vivere in massa in spazi non consoni e insalubri, magari decadenti, locati da chi, senza alcuna base etica, sfrutta la loro precaria posizione economica. Last but not least, la tanto denigrata e oggi più che mai contrastata occupazione a scopo abitativo, che nasce dal disagio delle lunghe liste d'attesa, dalla lenta attribuzione di alloggi, dai requisiti richiesti nella nuova modalità di calcolo dell'ISA del 2013, che limita ancora di più l'accesso alle agevolazioni sociali. Ma veniamo un attimino al punto della situazione. Quali? Essendo tante, ci siamo concentrati su alcune. Sì, le occupazioni a scopo abitativo che hanno un retroterra, diciamo, politico sono tante a Bologna. Quelli che siamo andati direttamente a conoscere sono in particolare due. Una è quella dell'ex Beretta, che in via 21 settembre, l'ex clinica Beretta, dove vivono al momento attivisti di Asia USB e occupanti facenti parte del sindacato USB. Asia USB è un sindacato di base, la cui lotta è quindi fondata sul lavoro, su battaglie sindacali, sul portare avanti un movimento politico per combattere la situazione di lavoro precario in cui si trovano in molti, soprattutto migranti. E infatti l'ex beretta occupata adesso si chiama Centro di Accoglienza Autogestito Lampedusa, perché è stata occupata il 1 marzo, giornata mondiale del rifugiato e del richiedente asilo. Questo per far luce sul fatto che le occupazioni non sono tutte uguali e che le problematiche alle quali si fa fronte sono differenti. Perché? Perché appunto non vi è soltanto il diritto all'abitare, ma anche al lavoro, che è strettamente legato a quello che è il diritto all'abitare, perché senza un lavoro non puoi avere accesso a una casa. Ed è questo ciò che Asia rimarca. Per quanto riguarda invece l'altra occupazione che abbiamo conosciuto, ci siamo andati il giorno dell'apertura, diciamo proprio dell'occupazione al pubblico, perché appunto, contrariamente a quanto si possa pensare, loro sono ben contenti di mostrarsi, di parlare, di rendere gli altri partecipi della lotta di cui si sono resi protagonisti. Questa è una casa occupata dai militanti del collettivo Labà, che ricordiamo ha sede nell'ex caserma Masini, che proprio dalla sua occupazione presenta come parte della sua idea il progetto del crowd housing, ovvero della riqualificazione a scopo abitativo per restituire degli spazi alla collettività per sottrarli a quella che è la fatiscenza. Si parla di riqualificazione di stabili o di appartamenti che sono stati disabitati e che hanno subito l'incuria dei proprietari o di chi vanta o ha vantato diritti su di essi. Tutto questo con l'autofinanziamento, l'unico strumento che ha permesso di rendere tali luoghi abitabili. Tant'è che a colpi di cazzuola e calderella gente volenterosa è riuscita a dare un aspetto di casa anche in poco tempo, perché poco tempo è passato da mercoledì a sabato. Infatti noi, dopo soltanto veramente pochissimi giorni da quando avevano occupato, abbiamo visto un luogo rinato, un luogo abitato da un sacco di persone che hanno visto che con il lavoro e la volontà c'era la possibilità di dare vita e darsi una nuova vita. Il collettivo Labà, insieme agli occupanti, grazie a un percorso di consapevolezza politica e di presa di coscienza di quelli che sono i loro diritti e i loro bisogni, hanno davvero fatto un lavoro grandissimo, di cui non si può che meravigliarsi in modo positivo nel momento in cui si entra in questo stabile. Ed è positivo il fatto che l'Istituto Cavazza, proprietario dello stabile occupato, abbia riconosciuto l'emergenza abitativa causa appunto dell'occupazione e che abbia condiviso la critica avanzata dal collettivo Labà per quanto riguarda la gestione della problematica da parte del comune. Prima di lasciarvi alla rubrica Buffier, vi salutiamo con un'ultima canzone che non a caso si chiama Homeless. Grazie di averci ascoltato e arrivederci. A man is in the street tonight. He's searching in the rubbish on the light. A man is in the street tonight. Boom, boom, I'm watching by the window. I can't hear in the fog. In the arbor, the wind flow. The bark of a dog. Street tonight, he's searching in a rubbish. watching by the window. I can't hear in the fall. In the harbor, the wind flow. A man is in the street tonight. He's searching in the rubbish on the light. A man is in the street tonight. Special work was to all homeless boy. Special work was to all homeless. Special work was to all homeless girl. Special work was special work was. Eccoci arrivati al nostro attesissimo momento Buffier, ora anche accompagnato da una base direttamente dallo studio. Visto che a Bologna si incontrano tante persone interessanti, ne abbiamo portata una nel nostro studio che ci farà un bellissimo Buffier live. E ora si presenta da solo, ci dice cosa fa, cosa vuole presentarci oggi. Buongiorno cari amici ascoltatori, grazie per avermi invitato alla vostra trasmissione. Io sono Nicola Palladino e mi trovo qui a Bologna a frequentare il DAMS. Diciamo, l'ho scelto il DAMS perché volevo coltivare la mia passione da musicista, scoprendo un attimo la storia della musica e il suo proseguo fino ad arrivare alla musica contemporanea. Nel frattempo mi sono dedicato alla scrittura di vari brani, e quindi adesso mi chiamano cantautore perché ho scritto dei brani e accompagnati da della musica, e vorrei proporvi un brano oggi che si chiama C'è già. C'è già quando fumi, c'è già quando pensi, c'è già quando parli. Ma quanto ormai son sicuro che sai già che esiste l'aldilà, che futuro qui non hai. E vai lentamente, vai col pensiero nella mente, vai. Stando fermo non saprai, o forse no, a nuova vita, nuova strada, anche se non l'hai mai cercata, mai crescerai, mai capirai, più avanti vai, vai, che confusione hai, sto cambiando la ragione, hai. Che dolore, e per quanto si sforza, mai niente può cambiare, tutto può fruttare. E quando capirai, c'è già, quando fumi, c'è già, quando pensi, c'è già. Quando parli, ma quanto? C'è già, ma non sei più quel che c'è già, sei tu. Bene, quando diventerà famoso comincerà a vendere i CD e vogliamo che si ricordi di noi, ci dica siete quelli che mi hanno scoperto, ok? va bene, lo farò sicuramente, dai, è una promessa. Ah, bene, allora, non so, ci salutiamo anche per questa volta, se vuoi dirci magari alla fine perché hai scritto questa canzone. Certo, certo, questa è una canzone più che altro che riguarda il rapporto che ho con un mio carissimo amico e il rapporto che lui ha con la sua realtà. L'ho vista e mi ci sono ritrovato in questa realtà e quindi ho detto, scriviamo, scriviamo, mettiamo inchiostro su carta e dedichiamogli questa canzone. Va bene, regalaci il tuo primo CD e ci salutiamo. Ciao a tutti, alla prossima.